edizione. Le 6:17 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Naturalmente le aperture, come potrete ben immaginare, sono in gran parte economiche oggi. Fanno seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Monti. Però sono, a dir la verità, piuttosto variate. Insomma, le scelte sono diverse. C'è il Corriere della Sera che titola "Disagio una famiglia su due", un virgolettato. Monti sacrifici fino al 2013, il titolo della Repubblica. Monti crescita solo nel 2013 è quello della Stampa. Via al piano per la crescita è il titolo del Messaggero. E visto che le aperture sono tutte economiche, iniziamo però dal Sole 24 Ore che racconta innanzitutto in apertura una notizia che c'è, ed è una notizia importante, perché arriva il credito d'imposta per la ricerca, cioè il piano passerà dalle infrastrutture ai crediti con la pubblica amministrazione. Monti che dice appunto niente crescita fino al 2013. Sul credito d'imposta scrive il Sole 24 Ore: lo studio, un bonus triennale del 30% su IRES e IRAP sino a 450.000 euro. Intanto viene posta la fiducia sul decreto fiscale e ci sono tensioni tra PDL e PD sulle coperture. L'editoriale di prima pagina firma di Adriana Cerretelli, quindi temi europei, l'Europa e la crescita, la tempesta non è finita, è il titolo. A centropagina invece una questione europea che riguarda l'altro grande tema per la crescita, ossia gli investimenti. Project bond entro l'estate, il commissario europeo Olli Rehn, che dice che sono in arrivo le emissioni con garanzia europea, finanzieranno le reti di trasporto, energia e telecomunicazioni. E sempre a centropagina, altra notizia arrivata ieri: come sapete c'è stato uno scontro sul cosiddetto beauty contest, ossia la possibilità che era prevista di che ci fosse non una gara ma un'assegnazione gratuita delle frequenze televisive. Perché è stata prevista la gara con un emendamento al decreto semplificazioni. C'è stata ieri l'ira del PDL, Mediaset che ha confermato il ricorso al TAR. Ebbene, salta il vertice tra Monti e Berlusconi. Tensioni sul piano TV, perché i due si dovevano vedere a pranzo. Nella giornata di oggi vi segnaliamo dal Sole 24 Ore anche le simulazioni sugli effetti dell'IMU e le istruzioni per non sbagliare i conti della tassa, oltre che i primi calcoli sul nuovo catasto, i comuni che sono impreparati. Veniamo al Corriere della Sera. A disagio una famiglia su due, come si diceva, il titolo economico. Un commento a firma di Marcello Messori: essere competitivi non è poi difficile, dice. Sempre in primo piano ci sono i due titoli che riguardano la questione TV, sul governo che va avanti sull'asta, la protesta di Mediaset e il cavaliere che rinuncia al pranzo a Palazzo Chigi. Centropagina, la vicenda della quale vi parlavamo poco fa all'interno del giornale radio, due questioni politiche e che riguardano inchieste. La Lega, Belsito preparò un dossier contro Maroni, ma il titolo forte su Berlusconi indagato a Bari per induzione a mentire, e la difesa che dice archivieranno. Altre due questioni. Severino, il ministro della giustizia, che dice i partiti accettino le norme anticorruzione, e un'intervista alla Camusso che dice Fornero dalle tute blu, scelta supponente. A centropagina invece una grande foto di Juan Carlos, il re di Spagna, al centro di uno scandalo per un safari nel quale, insomma, è stato ucciso un elefante. Ha fatto pubbliche scuse il re di Spagna. Questo il quadro per quanto riguarda il Corriere della Sera. Come si diceva, La Stampa, il titolo è Monti, crescita solo nel 2013, commento a firma di Luca Ricolfi, il rischio delle buone intenzioni. Anche qua si parla degli incentivi al sistema imprese, meno legge, credito d'imposta. E poi c'è la vicenda del Bahrain, altra vicenda importante, perché sta arrivando la Formula 1, e però in Bahrain c'è una situazione molto tesa. L'anno scorso la corsa era stata cancellata e il regime teme disordini. C'è una foto di un graffito su un muro di Barbar che invita a boicottare addirittura il Gran Premio di Formula 1. Sulla vicenda del dossier contro Maroni c'è un retroscena a firma di Giovanni Cerruti, che racconta di un dialogo tra Maroni e Bossi, di un dialogo che dovrebbe arrivare più compiutamente oggi. Roberto Maroni al telefono ha chiamato appunto Umberto, e adesso dimmi cosa ne sapevi di questa vicenda. La Repubblica, Monti, come si diceva, sacrifici fino al 2013, il titolo. C'è un intervista, in realtà viene riportata un'intervista del governatore della Banca d'Italia alla Storia Siamo Noi. Il governatore della Banca d'Italia, Visco, che dice: misure coraggiose per sviluppo e lavoro. Carli diceva, quindi qua cita Visco, Carli diceva che il governo tecnico è una trovata qualunquistica o sovversiva. Condivido, ma il governo di Monti è politico. Dà più risalto degli altri giornali, se si fa eccezione per l'Unità, poi ci arriveremo molto rapidamente. La Repubblica ad una vicenda che è quella sulla Roma-Tunisi, ne avrete sentito parlare già nella giornata di ieri. Che cosa è successo? Alcuni due tunisini rimpatriati sul volo Roma-Tunisi, appunto, insomma, a due di queste persone sono stati messi, è stato messo dello scotch sulla bocca mentre erano sull'aereo, dello scotch da pacchi sulla bocca. Tant'è vero che Repubblica lo riporta in prima con ampio risalto e un commento a firma di Michela Marzano: la compassione e le regole. L'Unità addirittura ci fa la sua foto di apertura: vergogna sul volo per Tunisi, immigrati legati e con lo scotch sulla bocca, così venivano rimpatriati, la polizia ordina un'inchiesta. E anche qua si parla di dignità violata. Anche qua, anche su Repubblica, risalto alle scuse di Juan Carlos. Andiamo a chiudere con Il Messaggero. Anche Il Messaggero, a dire il vero, dà risalto alla vicenda dei due immigrati. Sul governo, sull'esecutivo, c'è un editoriale a firma di Gianmaria Grospietro: quei buchi nell'agenda di governo. Da segnalare dal Messaggero un intervento del segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone, il cardinal Tarcisio Bertone, sui 7 anni di pontificato di Benedetto XVI. Benedetto XVI non solo teologo, ma vero maestro, questo il titolo. Da segnalare che su Belsito, sulla vicenda del dossier su Maroni, il Messaggero riporta proprio le parole di Belsito: spiavo Maroni, Bossi sapeva. E quindi il chiarimento che dovrebbe esserci tra Maroni e Bossi oggi sarà, come dire, particolarmente importante. Il Messaggero ha anche un'intervista al ministro dei beni culturali Ornaghi: tutelare il Colosseo con una norma su decoro e legalità. Come sapete, dopo le polemiche sulla cacciata dei centurioni, dei finti centurioni, da sotto il Colosseo. Prima edizione. Sono le 6:33 minuti e 57 secondi, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È 19 aprile, la mattina di Radio 24, l'Italia che si sveglia, l'Italia che racconta e che ascolta storie italiane. Oggi parliamo di rock italiano è di un gruppo importante che si sta imponendo anche all'estero, in particolare in Francia. Proprio in questi giorni, il 21 aprile, inizia il tour d'Oltralpe dei torinesi Subsonica. Li ha incontrati nel backstage del tour Nicola Accado. Il primo album portava lo stesso nome del gruppo, Subsonica. Era il 1997, sono passati 15 anni dall'esordio della band torinese. Un fenomeno nuovo fatto di rock ed elettronica che insieme ai Blue Vertigo rivoluzionava il pop italiano. 15 anni dopo Samuel, Busta e compagni hanno ancora l'energia delle rockstar, ma sono diventati una referenza culturale in Italia e soprattutto per la città di Torino. Idoli di una generazione che è cresciuta con la loro musica e che ora ha invaso l'Europa per cercare un futuro lavorativo. Sono loro, gli italiani all'estero, a riempire i concerti del tour europeo tra Berlino, Londra e Parigi. Andiamo a massaggiare i cervelli in fuga che scappano dall'Italia, però devo dire che con sorpresa capita spesso che in questi concerti ci siano anche molte persone che non sono italiane, che proprio per concomitanza di amicizia con gli italiani vengano al concerto, e quindi comunque è un momento nuovo per la musica italiana, nel senso che la rete ha dato la possibilità di abbattere un po' le frontiere, anche se non 10 anni fa già solo se non avevi il disco distribuito in un paese straniero non potevi pensare di fare dei numeri come quelli che abbiamo fatto noi stasera. Qual è il significato di questa tournée europea a 15 anni dal primo disco? Perché avete scelto di festeggiare in Europa? Ma non abbiamo scelto, ci hanno proposto di fare i concerti e noi abbiamo deciso di inserire anche i concerti europei in questa sorta di ricordo del primo disco che è uscito 15 anni fa ormai. E quindi abbiamo organizzato una tournée unica che comprende l'Italia e l'Europa, però non è stata un'idea, cioè ormai in qualche modo avevamo anche un po'... eravamo abbastanza disillusi sul fatto di poter andare a suonare in giro per l'Europa, perché comunque sai benissimo che fino a poco tempo fa cantare in italiano era un limite per chi voleva valicare le frontiere. In realtà ora, come molto spesso accade nella vita, le cose che sembrano scontate poi ti sorprendono, e adesso siamo in giro cantando in italiano, facendo sold out in tutti i posti dove andiamo, anche in America abbiamo fatto sold out, quindi è una cosa che ci sorprende e che ci rende felici. Grazie a Nicola Accado per questa intervista ai Subsonica, uno dei gruppi più amati dai più giovani. Italia in controluce, torniamo oggi con nuove storie su Radio 24. Abbiamo voluto evitare, e ci battiamo ogni giorno per continuare ad evitare, un drammatico destino come quello della Grecia. Vedevo delle cifre in questi giorni di un bilancio della devastazione che la crisi ha portato alla Grecia, anche là, molto più che in Italia, certo, per gravissimi errori delle politiche e delle condotte del passato. Ci sono stati tagli enormi nel numero dei dipendenti pubblici in questi ultimi 2-3 anni a seguito della crisi. Ci sono stati 1725 suicidi. Queste sono le conseguenze veramente drammatiche delle crisi. E questo è quello che in Italia, in condizioni molto difficili, stiamo cercando di invertire. E naturalmente la voce era quella del Presidente del Consiglio, Mario Monti, l'avete sentito, che dice comunque sacrifici fino al 2013. Fino al 2013 non tornerà la crescita. È un'impostazione che inizia a creare qualche preoccupazione, soprattutto dal punto di vista fiscale. Io saluto Claudio Borghi, editorialista del Giornale, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professor Borghi. Buongiorno a voi. Lei è preoccupato? Ma Io sì, sono preoccupato perché mi sembra di vedere che ci si sta piegando a una tesi preconfezionata, vale a dire che con il fiscal compact tutte le cose miglioreranno ci rimetteremo sulla retta via, senza preoccuparsi del problema vero, vale a dire che la crescita non si ottiene chiedendola, vale a dire io non posso spezzare le gambe a uno e poi dopo ordinargli di saltare, perché questo non salta. La crescita si ottiene con un ambiente sereno per gli investimenti. È un ambiente fiscalmente oppressivo, non è un ambiente sereno per gli investimenti. Ha suscitato un qualche stupore il fatto che l'altro giorno, nella presentazione della delega fiscale, insomma, a fronte di una promessa abbastanza evidente di utilizzare il denaro ricavato dall'evasione fiscale per ridurre le aliquote, in realtà poi la corrispondenza tra le due cose non ci sia stata. Effettivamente dovrebbe preoccupare, ma io non è che ci credessi tanto, se devo essere sincero, perché da che mondo è mondo, ogni volta che c'è stato un recupero di denaro dall'evasione fiscale, e guardate che è stato sensibile, perché da quando c'è stata la riforma delle esattorie nel 2004 la pressione fiscale italiana è andata salendo costantemente, in parte recentemente per esempio per l'aumento delle tasse, in precedenza invece se saliva a parità di aliquote era proprio per un miglioramento della fiscal compliance. Quindi cosa succede? Succede che tutte le volte che sono state pagate più tasse, questo extragettito non è mai stato utilizzato per ridurre le aliquote, ma è sempre stato utilizzato per aumentare le spese o coprire altri buchi. Questo evocare la spirale greca da parte del Presidente del Consiglio, che effetto le ha fatto? Ma è uno spauracchio che viene utilizzato per far passare qualsiasi tipo di provvedimento. Attenzione che se non facciamo così finiamo come la Grecia. Quello che stranamente non si fa è ragionare di che cosa poi ha portato ad arrivare in Grecia in quella situazione lì che tanti vogliamo evitare. E la maggior parte dei casi si tratta quasi sempre delle stesse ricette che invece applicano a noi, perché in Grecia facevano una manovra a settimana e il risultato è stata fuga tremenda di capitali, e impoverimento del paese, recessione con poi dopo disastro conseguente. Qua da noi si dice attenzione che sennò finiamo come la Grecia e poi dopo si applicano le stesse ricette, non mi sembra molto furbo. Grazie a Claudio Borghi, che è editorialista del Giornale, professore di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano. Buona giornata e grazie per essere stato con noi. Noi adesso, grazie Borghi, buona giornata. Allora, stiamo attendendo perché abbiamo un qualche problema, dovevamo mettere in onda un file, chiedo conferma al mitico Peter Bescapè, se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, la voce che volevamo sentire è quella della marcia silenziosamente, perché abbiamo parlato di problemi che arrivano dalla crisi, la marcia per denunciare la crisi industriale, per ricordare chi in tutta Italia, non vedendo via d'uscita, si è tolto la vita, 20 sigle tra sindacati, associazioni e confederazioni, tra cui CGIL, CISL, Wilconf, Commercio, Federlazio, Unindustria, Maurizio Flammini, presidente di Federlazio, al microfono di Jacopo Matano. La serata è stata estremamente importante. Il segnale importante sarà che da domani, prima di pensare a suicidarsi, penseranno che ci sono tante persone che li sostengono, che siano essi lavoratori, che siano degli imprenditori. Dovranno pensare che qui questa sera c'erano migliaia di persone che pensano a loro e soltanto a loro. Il governo, che ha tanti problemi, deve pensare al bilancio, ma deve pensare anche alle imprese. Solo le piccole piccole e medie creano l'81% dei posti di lavoro. Aiutare le piccole e medie imprese significa aiutare l'Italia. Prima edizione. Sono le 6:47 minuti, saltano dunque i primi tra gli uomini del presidente Obama che erano in Colombia, protagonisti di uno scandalo del quale molto si è parlato. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, per la precisione, un agente è stato licenziato, un altro ha presentato le dimissioni, un terzo ha accettato di andare in pensione. Altri 8 agenti coinvolti restano al momento sospesi. Cosa è successo? Questo è stato definito uno scandalo a luci rosse. In realtà il problema non è tanto il risvolto a luci rosse quanto la sicurezza del presidente Obama, che è stata messa a rischio dai suoi agenti. Perché lo scorso weekend a Cartagena in Colombia si è svolto il Summit delle Americhe e, come sempre, il corpo federale che si occupa della protezione di Obama e della sua famiglia si è recato sul posto prima per preparare l'arrivo del presidente. Ecco, 11 agenti avrebbero ospitato nelle loro camere d'albergo un numero non meglio precisato di squillo, 20 o 21. Questi agenti avrebbero reclutato le prostitute in un vero e proprio bordello, avrebbero bevuto e poi avrebbero anche fatto gli spacconi dicendo cose tipo «lavoriamo per Obama, siamo qui per proteggerlo». Poi tutta la storia è venuta fuori perché? Perché una di queste ragazze non è stata pagata e quindi ha iniziato a urlare per strada attirando l'attenzione della polizia. Tra l'altro il compenso era più o meno $50. Quindi forse anche mal pagati gli agenti della sicurezza. Sì, forse sì. Negli Stati Uniti il direttore del servizio segreto Mark Sullivan ha raccontato tutto alla senatrice repubblicana Susan Collins, la quale pubblicamente ha chiesto: ma chi erano queste donne? Possono far parte di gruppi ostili agli Stati Uniti? Possono aver collocato microspie nelle stanze degli agenti e quindi in qualche modo aver messo a rischio la sicurezza del presidente nel paese? These men and women perform extraordinary service on a day-to-day basis. Ecco, tutto questo veniva fuori mentre Obama era a Cartagena e, come sentite, ha dovuto pubblicamente parlare della vicenda, tant'è che c'è anche la traduzione sotto in spagnolo. Questi uomini e queste donne fanno un grande lavoro, ha detto Obama, proteggono la mia famiglia in circostanze davvero difficili. E poi ha detto: quanto è successo qui è oggetto di un'inchiesta, mi auguro che sia un'inchiesta rapida e approfondita. E chiudendo questi intervento Obama ha detto: se i fatti saranno confermati mi arrabbierò molto, cioè ha usato proprio questa espressione, I'll be very angry. Ebbene, quindi sarà arrabbiato evidentemente perché sì. Sono partite le dimissioni e evidentemente si sarà arrabbiato. Grazie alla nostra Valeria De Rosa dalla redazione, un ringraziamento per la collaborazione a Diego Rovelli e a Peter Bescapè in regia, un grazie per l'ascolto a tutti voi da Simone Spezia, una buona giornata, ci risentiamo tra poco con il Giornale Radio.